Michael Dando, Radio Ponderosa. Super Gold! Il fumetto è te, il fumetto è te, il fumetto è te, il fumetto è te, il fumetto è te, il fumetto è te, il fumetto è te. E dai, datte da fa, crea anche tu un fumetto, un'immagine, un disegno contro il carcere. Inviacelo in formato A4 per mail all'indirizzo scarceranda@ondarossa.info, oppure portalo direttamente qui nei studi di Radio Onda Rossa, via di Volci 56, San Lorenzo. Entro e non oltre il 10 ottobre 2014, perché il carcere nuoce gravemente alla salute. Ci sono anche quelli di mamma e papà, e forse qualcuno anche a te piacerà. Ragazzo, che aspetti? Incominciano i fumetti, i fumetti, i fumetti, i fumetti di TV. I fumetti a te, i fumetti. Rosso 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove tra le strade, per le piazze, contro il muro delle razze. Ci resiste chi ce magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista, Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Mamma Roma, città aperta, sguardo acceso, sempre allerta, dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio, le stronzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore. Sì. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Un macello, non ci sono parole su quello che stiamo vedendo. Cioè, mi cuore che chiedano a boicottare l'Israele, i protesti israeliani, a restare proprio alla scelta del popolo palestinese che ha deciso di resistere invece di andare avanti con le trattative inutili, quelle trattative intendo della pace inutili, che dal 93 fino ad oggi non ci hanno portato neanche un diritto. Per un contributo monetario alle richieste che arrivano dalla popolazione Gazzawi sotto assedio, conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185 Roma, specificando la causale Gaza. Long live Palestine, long live Gaza. Il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi di aria per sei sistemi sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Vai, vai, vai, vai, vai. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Don't walk the plank like I did. You will be just. a slippery, slippery, slippery slope. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me. Radio Onda Rossa. Se te estancan en la mente por no ser un team valiente y diferente a los demás. ¿Cuántos segundos has caminado de espalda al mundo? Pues te apena su realidad. ¿Y qué te importa que te amen si tú no te quieres ya? Si el amor que no te has dado en nadie lo vas a encontrar. ¿Qué me importa cómo vivan? Yo llevo adelante mi vida. Voy a cantar. Ay, ay, qué pena me da. Yo soy individual y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. Individual y me gusta el blues y me gusta el rock y me gusta el rap. Individual y me gusta el reggae y me gusta el funk y me gusta el jazz. Individual y eso no va a cambiar. Soy individual, eso no va a cambiar mientras pueda pensar. Individual y me gusta el blues y me gusta el rock y me gusta el rap. Individual y me gusta el reggae y me gusta el funk y me gusta. Thank you. martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ogni martedì dalle 17 alle 23 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Si inizia martedì 7 ottobre con le Femini, intervista Inna Shevchenko, attivista femminista. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. mfla.noblogs.org. Lift us, guy, young bad girls, do it well. Lift us, guy, young bad girls, do it well. Tell you the truth. Got lost through the satellite, got lost in the right up to the plunge down. Man sends the ray of the electric light, sends the impulse through the air down to home. And you can stand on the arms of the Williamsburg Bridge crying, hey man, well this is Babylon. And you can fire it on a bus to the outside world, down to Louisiana, you can take her with you. I've seen the reins of the real world come forward on the plane. I've seen the Kansas of your sweet little myth. You never seen it, no, I'm half sick on the drinks you mixed through your dreams of Wichita. True dreams of Wichita. Are broken like a sea in the asphalt stocks. Push out dead air from a parking garage where you stand with the keys and your cool hat of silence. Will you grip her love like a driver's license? I've seen you fire up the gas in the engine valves. I've seen your hand turn saintly on the radio dial. I've seen the airwaves pull your eyes towards heaven. Outside Topeka in the phone lines, her good teeth smile was winding down. The engine sputters ghosts out of gasoline fumes. They say you had it but you sold it. You didn't want it, no, I'm half drunk on Babel. You transmit through your true dreams of Wichita. True dreams of Wichita. A pushing, I got a bed, I got a too much things, I'm bounce on my head. I gotta burn them up, I gotta burn them uptown. I got to go uptown, uptown. I got a thing, I got a little bit push. Gotta stand on the corner and bellow for mush. I got a bomb, I got a baby bomb bomb. Gotta stand on the corner and bellow for my friend Tom. I got a thing, I got a thing it, I got a thing, a team. I got a bomb, that's not true dreams. True dreams, true dreams of Wichita. True dreams, true suspect in the torching of the lies. I was found guilty by a jury of my peers. Now the truth equals consensus and the populace is wrong. I am still condemned. Smarter.